Eccola qua la sigla Disorder. Disorder dunque alle 21.31 qui da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e www.ondarossa.info. Ricordiamo anche la necessità della sottoscrizione per questa emittente, per questa realtà dal 1977 completamente autogestita, e quindi sul sito della radio si può trovare 6180 4001 che è il nostro conto corrente postale, ma le altre diciamo modalità più elettroniche che danno la possibilità di sottoscrivere il più possibile. Saluto Alessandra qui a Roma, Maia e Nicolocci dalla Sardegna, Mariano Virdi a Berlino, Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta, Des De Carlo from Boston del progetto Violet Knox, Tabula Rasa, Laura Spirit Crusher. E poi Alberto Clipper di MDMA e Humanima, come Valerio Michetti, che insieme a Trinity Bersiani è nella grazia obliqua, Jess Gallagher da Catania, Simone Scalise, Audio Chaos, la Dark Wave calabrese, Marco Milanesio, Rosa Lavita, Wurnus Island dal Piemonte, Cecilia Miradoli di Pindar. Ancora Umanima con Cornelio Basilisco, Giulia a Roma, il medico della peste. Saluto anche i fedelissimi Flavio Derbecante, Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster, che ascolteremo mercoledì prossimo in prove tecniche di trasmissione. Allora, cominciamo con il nostro ormai consueto viaggio nella campagna del neofolk, delle corde oblique, e stiamo facendo un ripassino delle vecchie sonorità di questo ensemble campano che si muove tra Napoli e Caserta. Respire era l'esordio del ormai lontano 2005, ristampato poi nel 2016. E allora ci ascolteremo Fantasia sui tasti bianchi, un bellissimo brano evidentemente di pianoforte, e poi A Guitar Sounded Like a Lute, e poi un'altra traccia dal nome Dentro. Thank you. Please, Blue Father or Celestial, offer me a gift, maybe a quite expensive gift, for you too. Let me doubt without sin. Ancora, eccoci qua, ancora accorde oblique, sempre da Respiri, il primo lavoro. Questa è la 13ª traccia, anzi la 12ª, si chiama Dentro. Thank you. Parecchi minuti dedicati a accordi oblique e nello specifico respiri questo vecchio lavoro del 2005. Fermarmi a intuire quanto invocherò il passato è l'unico rimedio. Ricordiamo ancora una volta Riccardo Principe alla chitarra, le onde. Alessio Sica a batteria, Alfredo Nota Alberti al violino. Filano e riaffilano di continuo. Sottilissime striature dai bisturi del vento. Questa è la voce di Annalisa Madonna. Le mi riportano indietro. Umberto Lepore al basso. La collina Barbara ricorda la mia vecchia casa. Saluto anche Enrico Ponzoni di Soconcibuccio Project, Alicia Sardina. Quel cigolio. Di nuovo Alessandra qui a Roma. Tante cose. I sogni delle donne sono più intensi, i loro desideri travolgono i nostri sensi. Così normali. E quindi in queste settimane stiamo facendo un viaggetto nelle concezioni neofolk a livello europeo. Tutto il cuore, con tutto il corpo. In questa circostanza uomo. Si sente molto il Mediterraneo in respiro e nel progetto cordo obliquo in generale. Metti al vento. Su un monte intanto una statua anonima. Continuava. E invece adesso faremo un po' una. Diciamo una carrellata invece anche nel neofolk europeo in generale, sfruttando una compilation della Tesco, una etichetta e anche una etichetta che distribuisce, che bontà sua sul suo profilo Bandcamp dà la possibilità di scaricarsi in free download questa compilation dal nome Emptiness Below Zero. E quindi ci sono esponenti del punto del cosiddetto neofolk, ma non soltanto, perché ci sono esponenti anche di area diciamo più elettronica come Dernière Volonté, lo stesso Position Parallèle. I vari progetti di Kim Larsen, a partire da On the Way on the Moon. E questa sera dunque ci andiamo ad ascoltare, sempre a livello acustico, Sonia Galler, proveniente dalla Germania, con questo Assassins. E poi un progetto parallelo di Kim Larsen dal nome Le Chassés de la Nuit, anch'esso fondamentalmente acustica, una traccia che porterà il nome di Poison Past. The Negro understanding of human nature, because the only real danger that exists is man himself. He is the great danger, and we are pitifully unaware of it. We know nothing of man, far too little. His psyche should be studied, because we are the origin of all coming evil. Assassins gather.